Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati e Nessun luogo è lontano. Anche quest'oggi per tre quarti d'ora la grande attualità internazionale in primo piano. La squadra, come sempre, Mira Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione e Fabio Cantadori alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi, la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms 349-238-6666, su Facebook nessunluogolontano-radio24, Twitter nessunluogo24. E intanto partiamo dalla Siria. Doesn't get much more embarrassing than this for the Syrian government. Its Prime Minister, Riyad Hajjab, has turned his back on President Bashar al-Assad, and he's the highest ranking political figure to do so. E così la notizia di ieri è che il Premier Riyad Hajjab, braccio destro fino appunto a ieri di Bashar al-Assad, è fuggito in Giordania. Adesso si starebbe recando in Qatar per evitare problemi e tensioni diplomatiche proprio fra Giordania e Siria. Quindi defezione importante che sembra l'ennesimo colpo al regime, in realtà forse più di facciata che di sostanza. Intanto ad Aleppo il regime ha schierato da alcuni giorni 20.000 uomini, mentre, come racconta molto bene Florence Aubenas, inviata di Le Monde proprio ad Aleppo, le Shabia, le milizie fantasma legate ad Assad tengono duro in alcuni quartieri appunto di Aleppo e non solo. La battaglia per la seconda città chiave della Siria è ancora tutta da venire. Cerchiamo di fare il punto su questa defezione di lusso, chiamiamola così, con Lorenzo Trombetta, giornalista e commentatore per l'IMES da Beirut. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la domanda è molto semplice e forse molto complicata al contempo. È veramente un colpo al regime o tanto rumore per nulla? Entrambi, nel senso che da un punto di vista simbolico la defezione del primo ministro ha un valore molto significativo, può indurre altri membri dell'apparato formale del potere, l'apparato di facciata, le istituzioni, il governo, il Parlamento, gli organi di giustizia a disertare, a fuggire o comunque ad annunciare la loro unione ai principi della rivoluzione, come ha fatto ieri il portavoce del Premier disertore. Da un punto di vista invece di fatto, di coesione del regime stesso, nulla cambia, a differenza di quello che si dice, ragionando spesso con i termini della nostra logica occidentale, per cui il Premier nei nostri paesi ha un ruolo molto rilevante. In Siria il Premier ha di fatto un ruolo soltanto di rappresentanza, sì, visto che il potere esecutivo, come gli altri due poteri, sono di fatto in mano al Presidente della Repubblica e alla ristretta cerchia di potere che è attorno a Bashar al-Assad. Quindi che il Premier sia al potere o abbia defezionato, questo di fatto cambia poco per chi gestisce la repressione e il controllo di questa crisi. Tra l'altro vorrei citarvi a questo proposito una frase del Ministro dell'Informazione, citata ieri dalla France Presse, l'agenzia francese, in cui un po' spiega, anche fuori dai denti, qual è la percezione di Damasco. Lui ha detto: la Siria è uno stato di istituzioni e le defezioni delle personalità, delle varie personalità, quali che siano, non cambia il panorama, non cambia la direzione politica presa dallo Stato. Ecco, se sostituiamo Stato con regime, sì, capiamo molto bene quale sia la realtà. Il regime è un conto, poi le istituzioni, quelle che noi nei nostri paesi sono invece degli organi che governano, in Siria sono degli organi di rappresentanza. Sì. Lorenzo, i riflessi di questa lunghissima crisi siriana, 17 mesi oramai, in Libano si sono fatti sentire più volte nei mesi scorsi, nelle settimane scorse vi sono stati scontri a Tripoli, città del nord, ma non solo. Al momento com'è la situazione? Che aria tira al confine? Ma l'aria sicuramente al confine, in particolare nord e nord orientale, continua a essere tesa. Ieri sono caduti dei nuovi colpi di mortaio proprio su alcune case a ridosso del confine, nella parte nord orientale appunto del Libano. Sì. In generale il paese è un paese che tiene, nonostante tutte le previsioni molto cupe che si facevano facevano, un paese che, ricordiamolo, fino al 1990 era imbrigliato in una guerra civile durata 15 anni, una guerra civile di fatto mai veramente conclusa, con tensioni a sfondo confessionale sempre molto vive, che si sono ripetute nel corso del tempo in varie zone calde del paese. Quindi si pensava che uno scoppio simile, uno scenario altrettanto caldo e teso anche a livello confessionale nella vicinissima Siria, che tra l'altro per molti anni ha avuto un ruolo politico e militare molto importante in Libano, ecco, si pensava che in Libano potesse riesplodere la violenza. Sì. Ci sono in realtà stati degli scontri molto sporadici, 17 mesi di violenza in Siria, quello che avviene in Libano è davvero nulla a confronto. Sì. A quello che sarebbe potuto, certo. Esatto, certo. Quindi i riflessi dal punto di vista umanitario sicuramente sono molto pesanti, i rifugiati di varia natura e di varie estrazioni sociali arrivano nelle zone più o meno altrettanto depresse del Libano, però ecco, in generale è un paese che tiene. Grazie allora a Lorenzo Trombetta per questa tua analisi da Beirut, buona giornata, buon lavoro. A voi, buon lavoro. E noi voltiamo decisamente pagina e andiamo in Nigeria. Andiamo in Nigeria nuovamente, dobbiamo occuparci del più popoloso paese africano in Africa occidentale, perché lo avete sentito anche dal GR, il bilancio dell'attacco alla chiesa di Okene nello stato centrale di Kogi è salito ad almeno 19 morti. L'attacco è avvenuto ieri alle 20:20 ora locale, mentre i fedeli erano raccolti appunto per la lettura della Bibbia che viene fatta proprio il lunedì sera. E un comando, in realtà non vi è stata alcuna rivendicazione, ma tutti puntano il dito contro Boko Haram, un comando di una decina di uomini armati avrebbe bloccato addirittura gli ingressi e le uscite della chiesa per poi poter mietere appunto le vittime. E allora, per fare nuovamente il punto sulla situazione e su questo cambiamento, se vogliamo, della location, del target, del bersaglio di Boko Haram, perché al momento Okene, lo stato di Kogi, è probabilmente lo stato più a sud in cui la setta islamista ha colpito fino adesso. È circa 3 anni che Boko Haram ha messo la quinta nella sua violenta campagna, mai aveva colpito così a sud. Abbiamo contattato proprio pochi minuti fa Shehu Sani, che è un intellettuale, un attivista nigeriano, un blogger, uno scrittore molto molto seguito, e abbiamo cercato di capire intanto perché un punto così a sud. First of all, we need to understand clearly that the targeted state or the targeted area is located within the northern part of Nigeria. Prima di tutto, bisogna cercare di capire che il bersaglio principale degli attacchi di Boko Haram è sempre stato il nord del paese. Ora lo stato di Kogi, colpito, è al confine tra il nord e il sud del paese. Il messaggio dei terroristi è chiaro. Le chiese, i poliziotti e le sedi di governo continueranno ad essere il bersaglio principale degli attacchi, compresi tutti quei musulmani che sono contro i loro interessi. Bisogna poi ricordare che uno dei membri arrestati viene proprio dallo stato di Kogi. Quindi non sorprende che Boko Haram abbia attaccato anche questo stato del centro, che geograficamente e politicamente fa parte del nord della Nigeria. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, i legami di Boko Haram con altri elementi estremisti come Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, di cui parleremo poi nella seconda parte della trasmissione, hanno dato nuova linfa vitale a questo gruppo, che sicuramente dopo gli attacchi di Abuja, la capitale della Nigeria di 2 anni fa, l'attentato alla sede dell'ONU, hanno anche cercato una ribalta internazionale. Fino adesso il governo di Goodluck Jonathan ha sempre risposto con la forza, ha sempre usato il pugno di ferro, non ha mai tentato un dialogo. Ascoltiamo ancora Shehu Sani su questo punto in particolare. The violence has been raging for the past 3 years. La violenza è scoppiata negli ultimi 3 anni ed è chiaro che il governo è incapace di fronteggiare Boko Haram solo con la forza. Le persone come me hanno sempre sostenuto che è necessario trovare altre opzioni. Abbiamo fatto degli appelli per trovare dei partners, per facilitare negoziati e incontri. Ormai è chiaro che il presidente e il governo sono disposti a ricorrere ancora alla forza per porre fine a queste violenze. Ma in tutta onestà, queste violenze continuano a mietere vittime innocenti. Penso che sia un cancro che non può essere sconfitto solo con la forza, ma con il dialogo. Dialogo finora impossibile perché il governo continua ad usare la forza. Continuano a morire vittime innocenti in questi attacchi violenti che stanno diventando sempre più cruenti. La violenza di Boko Haram, il recente attacco a una chiesa cristiana ieri sera, ne stiamo parlando, ne abbiamo parlato con Sheu Sani, lo abbiamo raggiunto pochi minuti fa, e ho chiesto a Sheu Sani a proposito del presunto appoggio da parte di alcuni politici del nord, degli stati del nord, appunto alla campagna sanguinaria di Boko Haram, quindi pressioni e supporto politico contro il governo centrale, pressioni e supporto politico da parte di alcuni stati del nord musulmani contro invece il governo centrale. Ascoltate che cosa ha detto. Well, there have been a lot of conspiracy theories with regards to the sustenance of this, the origin and the sustenance of this violence. Ci sono state molte teorie cospirazioniste sui sostegni politici a Boko Haram. In ogni caso, il gruppo ha la sua leadership, la sua ideologia, i suoi scopi e il suo programma di terribili omicidi. È sbagliato attribuire questi attacchi ai politici del nord della Nigeria, anche perché la maggior parte delle vittime è anche musulmana e viene dal nord del paese. Anche capi politici tradizionali musulmani sono stati uccisi e questo mostra che loro colpiscono dentro i loro confini. Insomma, il dialogo dovrebbe essere l'opzione, quella privilegiata, anche perché ricordiamo che Boko Haram, citavo i legami con altri gruppi jihadisti, ma tutto poi viene dall'apertura degli arsenali della Libia, di Gheddafi, a cui si sono riforniti un sacco di gruppi a piene mani. Boko Haram ha dimostrato negli ultimi 3 anni una potenza di fuoco che i gruppi speciali, le forze speciali nigeriane non sempre hanno saputo contrastare. E abbiamo visto anche, sappiamo, che le forze speciali nigeriane si muovono con piedi pesanti nel nord, spesso sono accusate da parte della popolazione e non solo, vi sono rapporti di Human Rights Watch che denunciano l'abuso di forza da parte della polizia, e quindi intellettuali e attivisti come Sheu Sani invocano un soft touch, diciamo, quindi una mano più delicata, e quindi insomma il dialogo per uscire da questa impasse. Ascoltiamo ancora Sani. In the West African sub-region and many countries in Africa today are being faced with similar problem of this kind of an insurgency. Dovremmo capire che molti paesi africani oggi stanno avendo dei problemi con questo tipo di sollevazioni. L'unico modo per uscire dal problema, secondo me, è di esplorare tutte le opzioni possibili e lasciare tutte le soluzioni aperte. Perché è da tempo un paese tormentato e confuso, e un paese da solo non può fronteggiare questi attacchi. Non penso che un paese in via di sviluppo come il nostro, che sta fronteggiando le necessità basilari della vita, possa usare tutta questa violenza per fronteggiare un problema del genere. E sono sicuro che una violenza del genere sia causata da anni di malgoverno e di distanza tra il governo e i cittadini. Casi seri di corruzione nella pubblica amministrazione hanno reso i governanti un'impresa criminale, e tutto questo ha lasciato spazio a questi gruppi per crescere in questo ambiente e li ha condotti al terrorismo. La corruzione è parte dei grandi mali, dei grandi canchi che affliggono la Nigeria, e beh, come si può risolvere questo problema di Boko Haram? Sheu Sani è veramente molto duro sulla fragilità del governo, però allo stesso tempo fuga ogni dubbio sulla possibilità di una divisione del paese in due. Well, violence that is going on, Beh, questa violenza che sta andando avanti, che voi chiamate terrore, che sta crescendo in Nigeria oggi, è un problema serio che mette in gioco il nostro coraggio e le nostre coscienze. È anche un problema che sta seriamente minacciando l'unità del paese e la nostra libertà. Ma se la Nigeria si dividerà sotto tutta questa violenza, non dipenderà da Boko Haram, dipenderà dall'abilità dei leader del paese di trattare il problema. I politici, sia del nord che del sud, sembrano uniti nel desiderio che la Nigeria continui ad essere una. C'è ancora molto da fare, ma non importa quante persone i gruppi uccidano, questo non renderà la Nigeria islamica e nemmeno la dividerà. Se la Nigeria rimarrà sola, sarà esclusivamente per il comportamento dell'esercito, dei politici e del ruolo che giocheranno. This attack has been raising a lot of debates and has also been raising a lot of doubts on the survival and continuity of Nigeria as one and independent and one and indivisible country. E questo era Sheu Sani, attivista e scrittore nigeriano, su Boko Haram e sui possibili rischi di un'escalation anche politica. Adesso l'informazione finanziaria, poi Nessun Luogo Lontano andrà in Mali. E ancora una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. 13.34, 30 secondi in questo esatto istante, voltiamo pagina dopo aver parlato di Nigeria e della minaccia estremista targata Boko Haram e andiamo in un'altra zona calda, andiamo in Mali, dove il nord del paese è ormai soggetto a una lunga partita a scacchi, dove a sedersi al tavolo sono tanti. Tanti attori, più o meno deboli, più o meno forti. Cercheremo oggi di capire meglio la situazione nel nord del paese. E lo facciamo, e do il mio primo benvenuto a Riccardo Fabiani, analista del Nord Africa per Eurasia Group. Dottor Fabiani, buongiorno. Buongiorno. E poi ci stiamo collegando in diretta con Bamako, ma i collegamenti con l'Africa ogni tanto traballano, quindi attendiamo ancora qualche minuto. Dottor Fabiani, cerchiamo di mettere ordine sulla presenza dei gruppi, dei diversi gruppi estremisti nel nord del Mali, ma non prima di aver ascoltato un breve riassunto. Dopo l'indipendenza dalla Francia nel 1960, il Mali, possessore di estesi giacimenti d'oro e grande esportatore di cotone, ma nonostante questo uno dei 25 paesi più poveri del mondo, ha sofferto la siccità, ribellioni, un colpo di Stato e 23 anni di dittatura militare fino alle elezioni democratiche del 1992. Nei primi anni del 90, la popolazione nomade Tuareg ha iniziato una rivolta per il possesso della terra e il proprio riconoscimento da parte di Bamako, che persiste fino ad oggi, nonostante i tentativi militari e di negoziazione del governo centrale di trovare soluzioni. Le stime sul numero dei combattenti Tuareg sono tra gli 800 e i 4.000. Collegati con i combattenti dell'ex leader ribelle Ibrahim Abganga di Mouvement Touareg du Nord Mali, il 16 ottobre 2011, insieme ad altri gruppi, si fusero per formare il Mouvement de Libération Nationale de l'Azawad. Il 22 marzo scorso, un gruppo di militari, guidati dal capitano Amadou Sanogo, ha preso il potere in un colpo di Stato, deponendo il presidente Amadou Toumani Touare, accusato di non riuscire a gestire in modo efficace la ribellione dei Touareg. Il 6 aprile, i Touareg, insieme a gruppi di ribelli islamici di Ansar Dine, hanno dichiarato l'indipendenza dello Stato Azawad, che comprende le regioni del nord del Mali, Tombouctou, Kidal e Gao, sua capitale. Successivamente, le tre regioni, rappresentanti due terzi del territorio nazionale del Mali, sono state completamente prese d'assalto da gruppi islamici vicini ad Ahmi, Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che hanno cacciato i Tuareg del Mouvement de Libération Nationale de l'Azawad, inizialmente loro alleati e, di fatto, estromessi dal governo delle tre città. Intanto, a Bamako, Dion Koundé Traoré, leader del partito centrista ADEMA, Alleanza per la Democrazia in Mali, è stato nominato presidente ad interim dall'esercito, segnando così il ritorno a un governo civile fino alle prossime elezioni democratiche. Questa è la situazione di un paese fondamentalmente diviso in due e di un paese che denuncia ancora una volta tutte le sue fragilità. Ma riprendiamo con Riccardo Fabiani da Londra, che è analista per il Nord Africa di Eurasia Group. Cerchiamo di fare una radiografia dei gruppi estremisti che hanno cacciato i Tuareg e che adesso controllano città importanti come Gao, come Timbuktu. Fabiani. Fondamentalmente in questo momento nel nord del Mali ci sono tre gruppi principali, tre gruppi estremisti come lei l'ha definiti. Il principale è Ansar ad-Din, questo è un gruppo Tuareg principalmente, ma non esclusivamente, islamista, quindi favorevole all'imposizione della legge islamica e della Sharia, fondato da Iyad Daghali, che è un famoso leader Tuareg storicamente molto attivo nell'area. Ansar al-Din non ha obiettivi regionali di imposizione di esportazione della legge islamica negli altri paesi, a differenza qui degli altri due gruppi presenti nell'area, fondamentalmente Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ACMI, come è già stato detto, e il MOJWA, il Movimento per il Monoteismo e la Jihad nell'Africa occidentale. Questi due gruppi invece sono dei veri e propri gruppi terroristici legati a un'ideologia islamica di carattere jihadista, a differenza di Ansar al-Din, che è più legato all'ideologia wahhabita, quindi dell'Arabia Saudita. Sì. MOJWA e Al-Qaeda nel Maghreb hanno come obiettivo quello di esportare la jihad, esportare la legge islamica in tutta la regione, e loro rappresentano davvero il vero problema per i paesi dell'area, mentre invece Algeria e i vari paesi confinanti vedono in Ansar al-Din un potenziale interlocutore, vedono allo stesso tempo però vedono anche in MOJWA in Al-Qaeda nel Maghreb un grosso problema, un grosso rischio per la stabilità dell'area. Allora, abbiamo parlato di applicazione della Sharia e di esportazione della Sharia, un'applicazione nella versione più intransigente, perché le notizie che arrivano da Gao non sono esattamente rassicuranti. Vi è stata ad esempio una lapidazione di una coppia che aveva avuto un figlio al di fuori del matrimonio. Ieri si è tentato di amputare la mano a un persona accusata di furto. La folla in realtà poi si è ribellata a Gao ed è stata evitata questa amputazione. Racconti di terrore arrivano dalle zone occupate da questi gruppi. Matteo Fraschini Coffi da Bamako, buongiorno. Buongiorno. Tu è due mesi che sei in Mali, hai raccolto testimonianze dai tanti profughi che hanno fuggito il nord. Che cosa raccontano? Qual è il timore principale? Come si vive nelle zone controllate da questi tre gruppi? Dunque, ovviamente gli aspetti sono tanti. Allora, per quanto riguarda gli islamisti, appunto parliamo di punizioni corporali, quindi fustigazioni frustate, lapidazioni se non rispetti le loro regole. Che vuol dire se fumi, se anche la suoneria del cellulare per esempio non deve essere usata perché la musica non va bene. Il mondo, diciamo, che si è svegliato quando gli islamisti hanno attaccato i mausolei di Timbuktu, e quindi tutta questa situazione ha fatto sì che centinaia di migliaia di profughi comunque appunto lasciassero il nord. Dal punto di vista invece dei ribelli Tuareg indipendentisti, appunto, sono stati abbastanza disastrosi i combattimenti che hanno visto appunto anche qui gli sfollati lasciare il nord. Ecco, la fragilità del governo di Bamako, ma anche dell'esercito maliano, è venuta fuori incredibilmente negli ultimi mesi, perché tante postazioni sono state lasciate dall'esercito maliano senza neppure sparare un colpo. Matteo, vista da lì, dalla capitale, come dire, c'è qualche segnale di recupero? C'è questo governo transitorio, si regge sulle stampelle o secondo te, come dire, ci sono i presupposti per farlo alzare in piedi e mandare l'esercito a recuperare il nord del paese? No, sono molto scettico, anche perché appunto abbiamo una crisi politica tra presidente appena tornato dopo due mesi d'assenza, no? Era a Parigi perché è stato aggredito due mesi fa da una folla di protestanti. Lui è appena tornato e gli è stato chiesto di creare questo nuovo governo di transizione, però sono in molti a volere le sue dimissioni, e la stessa cosa riguarda il primo ministro che ha governato fino adesso. Sì. Quindi io la vedo molto, molto brutta. È partito oggi proprio da Ouagadougou, quindi la capitale del Burkina Faso, il ministro degli affari esteri appunto del Burkina Faso, verso il nord per parlare con gli islamisti. Quindi è diciamo la CEDEAO, che è questa comunità degli stati dell'Africa occidentale, che si sta prendendo soprattutto in mano i negoziati. Sì, fra l'altro li sta prendendo in mano con grande lentezza, perché appunto, come dicevi tu, poi come dire, la comunità internazionale si sveglia quando i grandi mausolei di Timbuktu vengono attaccati dagli islamisti, mentre comunque c'è una popolazione nel nord del paese che non se la passa bene. Abbiamo raggiunto Germain Mouéou, portavoce della missione in Mali e Niger della Croce Rossa Internazionale. The humanitarian situation is very bad in general. You know, Mali. Le condizioni umanitarie della popolazione sono pessime. I problemi principali da affrontare sono la mancanza di cibo, che affligge da tempo tutta la zona e i paesi confinanti, il colera, i conflitti in atto e le quantità di rifugiati che stanno fuggendo in Mauritania, Algeria, Burkina Faso, Niger. La Croce Rossa Internazionale è presente sia nella capitale Bamako che nel nord del paese, a Gao, Timbuktu e Kidal. Ci occupiamo di fornire acqua, cibo, personale e materiale medico, carburante per i generatori. C'è inoltre un programma speciale, monitorare le condizioni dei detenuti. Prima la situazione era già difficile, soprattutto dal punto di vista della denutrizione, ma ora è decisamente peggiorata dopo la ribellione dei Tuareg di marzo. La gente ha paura non solo dei ribelli, ma anche che la comunità internazionale lanci un attacco armato nel paese. Military operation is launched by the ECOWAS and all the African countries. Oggi a nessun luogo è lontano un focus sul Mali, su questo paese fondamentalmente diviso in due, sui tre gruppi estremisti che prima a braccetto con i Tuareg e poi invece, avendo divorziato, si muovono separatamente, che insomma giocano questa partita a scacchi con Bamako, mentre la comunità internazionale, la CEDEAO, l'Unione degli Stati dell'Africa Occidentale, finalmente si sveglia, manda un emissario, come avete sentito, appunto nel nord del paese. E andiamo subito con Riccardo Fabiani su un punto che mi premeva toccare. Dottor Fabiani, perché Al-Qaeda nel Maghreb Islamico e gli altri gruppi estremisti applicano la Sharia in maniera così integrale e sembra quasi che non tengano conto, come dire, della popolazione del territorio in cui operano? Cioè sembra che facciano di tutto per non avere il favore della popolazione del territorio occupato. Diceva Matteo Fraschini, appunto, le sue testimonianze raccolte, la suoneria del cellulare, le donne non possono girare da sole, c'è malcontento nella popolazione. Perché manca a questi gruppi estremisti la ricerca del sostegno popolare? Io direi che qui bisogna fare però una distinzione, questo è un punto un po' controverso in realtà, perché nel breve periodo, ecco, bisogna fare una distinzione fra il breve e il lungo periodo. Nel breve periodo l'imposizione della Sharia, della legge islamica, ha in realtà portato un certo sostegno a questi gruppi, soprattutto perché è in contrasto con la fase di caos completo che era subentrata nel momento in cui il movimento Tuareg era entrato in queste città e aveva preso il controllo del nord del Mali. C'erano stati dei saccheggi, delle violenze, anche violenze sessuali nei confronti della popolazione. La popolazione era stanca di questa situazione di completo caos. Sì. I gruppi islamici sono subentrati, hanno imposto la legge islamica. Questa cosa ha portato in un primo momento a un certo sostegno da parte della popolazione, che chiaramente vedeva nella legge islamica un'alternativa al nulla, un'alternativa al caos completo. Chiaramente questi sono gruppi ideologici. Quindi per loro l'imposizione della legge islamica è fondamentalmente una questione puramente ideologica, per loro questo va al di là di ogni ricerca del consenso. Sì. Nel lungo periodo però chiaramente questo rischia di essere un vero problema, come stiamo vedendo in questi giorni con rivolte da parte della popolazione. Torniamo a Bamako con Matteo Fraschini Coffi, perché fra l'altro tu sei stato a Mopti recentemente e vi cito un'inchiesta che ha fatto l'International Herald Tribune, la versione internazionale fondamentalmente del New York Times. Insomma, a Mopti c'è un capitolo che a prima vista sembra molto preoccupante, perché alcuni ufficiali dell'esercito maliano stanno addestrando milizie popolari. Matteo, su questo punto come vedi la situazione? Sì, è preoccupante perché appunto queste milizie civili avevano anche già combattuto i Tuareg negli anni passati, quindi hanno idea di quello che possono essere i conflitti con il nord e speriamo però che appunto non facciano attacchi così improvvisati, perché a quel punto potremmo finire in una situazione molto molto preoccupante. Io però ci tengo a sottolineare una cosa, che nessuno qua si chiede il perché il nord del Mali è così diciamo in presa a una crisi umanitaria eccetera, perché questa regione ha un'abbondanza di traffici di tutti i generi, da droga, armi eccetera. Inoltre c'è anche proprio una regione, che quella del bacino del Tuadene, dove ci sono in atto delle esplorazioni, dove erano in atto fino a poco tempo fa delle esplorazioni petrolifere. Quindi dobbiamo chiederci soprattutto il perché in questa regione adesso siamo in questa situazione. Le motivazioni, quindi, anche economiche, nel racconto di Matteo Fraschini Coffi da Bamako. Io volevo tornare nuovamente a Londra con Riccardo Fabiani, che è analista Nord Africa per Eurasia Group. Ha messo molto bene in luce come dire, le differenze anche ideologiche dei tre gruppi. Abbiamo sentito da Fraschini Coffi che un emissario della CDAO sta andando al nord per trattare. Su che tavolo può essere buttata giù una trattativa? Di cosa si può parlare con questi gruppi insorgenti estremisti? Chiaramente l'unico interlocutore possibile al momento è Ansar al-Din, appunto, l'unico gruppo che non vuole esportare la jihad nel resto della regione. Gli altri due gruppi sono completamente esclusi, quindi non si parte dal presupposto che con loro non si possa parlare. L'idea chiaramente qui è di ottenere una sorta di compromesso accettabile, del tipo si può concedere per esempio maggiori forme di autonomia al nord del Mali, si potrebbe concedere anche la possibilità di implementare, applicare una sorta di legge islamica, anche se ovviamente annacquata rispetto a quella che c'è al momento. Ci sono delle possibilità di compromesso con Ansar al-Din, non ci sono possibilità di compromesso chiaramente con i gruppi terroristici. L'idea qui sarebbe di trattare con Ansar al-Din affinché Ansar al-Din accetti il compromesso, cacci Al-Qaeda nel Maghreb e gli altri gruppi terroristici e si riesca a formare una sorta di governo di transizione nel nord, ipoteticamente, che possa poi trattare con il governo al sud. Ci sono, secondo negoziatori della CDAO, delle possibilità di trattativa. Io credo che sia abbastanza in dubbio questa cosa, perché non vedo veramente grande volontà di trattare da parte di Ansar al-Din, almeno fino a questo punto, anche perché loro dipendono molto appunto dal sostegno di Al-Qaeda nel Maghreb, di Mojo e di tutti questi altri gruppi terroristici, e separare questi due gruppi sarà estremamente difficile, perché vorrebbe dire per Ansar al-Din fare una scommessa fondamentalmente, credere agli interlocutori internazionali e lasciare quelli che invece fino adesso sono stati i loro principali sostenitori. In tutto ciò la comunità internazionale, come spesso accade nelle questioni africane, subsahariane soprattutto, perché poi se si tratta di Libia, come abbiamo visto, la storia è stata molto più repentina. La comunità internazionale, dicevo, esita a intervenire, gli interessi in gioco sono forse non importanti e pressanti come quelli libici. C'è solo questo o, Fabiani, ci sono altre spiegazioni? C'è paura di mettersi contro, a muso duro, a petto forte, contro appunto questi gruppi estremisti, o c'è qualcos'altro sotto? La Francia fa dichiarazioni in questo senso, insomma, dice dovremmo intervenire. Poi la Francia, come dire, ha un passato coloniale in Mali, quindi perché c'è questo attendismo da parte della comunità internazionale? Poi andiamo a Bamako con Fraschini Coffi. Ma sicuramente, cioè, innanzitutto io metterei la memoria, il ricordo di quello che è stato l'ultimo grande intervento internazionale in Africa, che è la Somalia, un grande disastro negli anni 90 e che nessuno vuole andare a ripetere. Il fatto è che la capacità logistica, diciamo, di intelligence, eccetera, delle potenze occidentali, per esempio, in mare è assolutamente limitata, perché parliamo di un paese che storicamente è molto poco importante per Francia, Stati Uniti e così via. Per la Francia certo ha un ruolo, ha un'importanza, ma non stiamo parlando certo della Libia o dell'Iraq e così via. Certo. Dall'altra parte poi c'è una certa riluttanza da parte delle principali potenze regionali. Se noi prendiamo l'Algeria è il paese più importante in quest'area, in questa regione, e l'Algeria è completamente opposta ad ogni ipotesi di intervento militare nel paese, e nessuno ha intenzione di intervenire militarmente nel Mali senza il consenso o senza l'appoggio dell'Algeria. In Francia poi abbiamo un governo socialista che chiaramente non ha tutte queste non ha una grande voglia di intervenire in Mali, non è certo come il governo di centrodestra di Sarkozy, e negli Stati Uniti chiaramente giustificare un intervento militare in Mali adesso sarebbe praticamente impossibile alla vigilia delle elezioni presidenziali. Quindi abbiamo una serie di fattori che fondamentalmente convergono per allontanare la possibilità di un intervento militare al momento. Gli unici che spingono in questa direzione sono i paesi dell'area riuniti nella sede AU, che però hanno bisogno del sostegno, appunto, dicevo, dell'Algeria, ma soprattutto del governo di Bamako per poter fare qualcosa del genere. Anche perché ricordiamo che l'area controllata dai gruppi estremisti è gigantesca, il Mali è un paese enorme, ci sono zone desertiche da attraversare, poche piste da percorrere, anche logisticamente l'intervento militare avrebbe bisogno di forze massicce. Abbiamo citato l'Algeria, è anche vero che l'Algeria ha fronteggia storicamente Al-Qaeda nel Maghreb, quando era il gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, ma negli ultimi anni, mi corregga se sbaglio Fabiani, ha sviluppato una ricetta antiterrorismo piuttosto forte e senza troppe ingerenze esterne è riuscito a controllare la minaccia terroristica abbastanza efficacemente. E poi diceva Fabiani giustamente, l'ultima missione internazionale in Africa è stata la Somalia, disastrosa in primis per gli americani, però ricorderei anche la Costa d'Avorio l'anno scorso, dove insomma l'intervento francese così discusso è suonato quasi come un colpo di stato preparato. Vorrei tornare in chiusura a Bamako con Matteo Frassini-Coffi, giornalista freelance che da due mesi sta lavorando in Mali. Matteo, la popolazione di Bamako e anche i profughi che ha incontrato, come prenderebbero un intervento esterno? Qual è la sensazione, la percezione rispetto a questa possibilità? Dunque, sicuramente ci sono un po' di divisioni, c'è una parte della popolazione che vuole l'intervento esterno, una gran parte che invece vuole un intervento interno, quindi l'esercito maliano pronto appunto a scontrarsi con il nord. Però siccome questo non è soltanto un problema maliano, è importante capire che ci vuole un'azione concertata con più paesi. Grazie allora a Matteo Frassini-Coffi per essere stato con noi, è in Mali, posteremo su Facebook il suo blog, il suo sito, così gentili ascoltatori potrete seguirlo nel suo lavoro. Buona giornata Matteo, buon lavoro. Grazie a voi. E grazie anche a Riccardo Fabiani, analista Nord Africa per Eurasia Group, per la sua attenta analisi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata. E noi abbiamo tempo di girare il mappamondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. Intanto vi segnalo una prima reazione del nostro ministro degli esteri Terzi che dice occorre discutere, riguardo alla Nigeria, occorre discutere una strategia comune europea e internazionale per la protezione delle minoranze religiose in pericolo come i cristiani della Nigeria, ancora una volta colpiti da una strage. Lo ha detto il ministro degli esteri Giulio Terzi parlando di terribile piaga e strategia criminale terroristica appunto contro i cristiani nel paese africano. E poi andiamo in Egitto perché ne abbiamo parlato ieri in trasmissione per quelle vittime, quell'attacco terroristico al confine di Kerem Shalom. Migliaia di persone hanno preso parte ai funerali delle 16 guardie di frontiera appunto uccisi in un raid di due giorni fa al confine con Israele, e però la manifestazione funerale si è trasformata in una manifestazione contro il presidente egiziano Mohamed Morsi. All'uscita della grande moschea dove si è tenuta la preghiera funebre, alcuni manifestanti hanno lanciato scarpe contro il premier Hisham Kandil e sono intonati slogan anti-Morsi. E poi vi citavo, a inizio trasmissione ve lo recito perché è un reportage davvero interessante, se avete possibilità collegatevi a lemonde.fr, scritto lemonde.fr. L'inviata speciale Florence Aubenas ha fatto un'inchiesta molto interessante, ripresa in prima pagina, sulla Shabia, sono le milizie invisibili, fantasmi del regime di al-Assad e le loro tecniche, e racconta un episodio di guerriglia tra i miliziani contro Assad e appunto invece queste milizie, molto interessante oggi su Le Monde in edicola. E infine vi citavo quel reportage dall'International Herald Tribune da Mopti, dove appunto il loro inviato racconta di queste milizie civili che vengono malamente armate dall'esercito maliano. Ci sono uomini e donne che vogliono riconquistare il nord, ma poche armi a disposizione e quindi insomma motivo di preoccupazione. Quasi le 13.59, sì, in questo istante, allora i titoli di coda. Non mi resta che ringraziare Mira Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione, Fabio Cantadori che anche quest'oggi ha dato ritmo alla puntata di oggi. Noi ci risentiamo con una replica domani alle 6.30 e poi alle 13.15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.